L'erba che sbrega i pai, che spacca i piedi, che scrosta i muri. L'erba che non mor mai, che viene da niente, niente a magna. L'erba che non sparagna, per c'ha la fama, per convenienza. L'erba che vive senza il giardinier che cura e bagna. L'erba che sonda i passi, se piega dolce per un momento. Che storse appena a testa, quando che piove continua il vento. L'erba che ogni volta sempre più verde si rialza. Dopo aver pena, è prima spiera che la incanta. L'erba che sotto i sassi, dentro al cemento, pianta raise. Che dà colore al freddo, è notte e ha paura. L'erba che il tempo basa, carezza e fa sicura. L'erba che intenerendo sa diventar più dura. L'erba che nasconde ai primi basi, prime carese, che fa da eto a nuovi amori e a esso tenerese. L'erba che dà profumo alla tua vita di ogni giorno e che colora etera del tuo viaggio senza ritorno. L'erba che ti dà fiori sotto voce senza far ciasso. Fiori che nessun rancura per il suo profumo per farne un masso. Fiori che non compete con quegli altri dei miei colori. Nati però bambinse, grandi fatiche, grandi dolori. L'erba che ci ha mamata, a me piace per la sua passia. Pare essere roba di tutti, di nessuno e po' anche mia. Pare essere pronta a morire, a rinascere in un momento. Pare essere pronta a sfidare anche il più gran monumento. Perché noi agamiti, rispetti, riverenze, buone maniere, gesti, parole da conferenze. Sta erba, credi me, non serve seminarla. Sta erba non si vende, non si voglia anche a comprare.